Le parole non sono uguali, hanno un'anima, perché le parole evocano immagini, sensazioni e a volte queste sensazioni sono negative, a volte sono positive. Nel video di lunedì scorso, perché ogni lunedì esce un nuovo video, lo sapevi, vero? E che puoi iscriverti al canale attivando la campanella per non perdere le notifiche, mi sembra di avertelo già detto, giusto? Nel video di lunedì scorso vi dicevo che le parole che pronunciamo prima ancora di avere un effetto al di fuori di noi hanno effetto dentro di noi, che prima le pensiamo e poi le pronunciamo. Oggi vorrei farvi proprio qualche esempio concreto di quanto sia importante quali parole scegliamo di utilizzare, di quanto queste abbiano una ricaduta sul nostro modo di vedere la realtà. E credo che rimarrete abbastanza stupiti nel vedere di come scegliendo parole diverse potrà cambiare anche il modo con cui noi percepiamo dentro di noi la realtà e quindi in secondo luogo affrontiamo la realtà. Primo esempio, supponiamo che ti sei impegnato per un progetto molto importante, hai investito molto su questo progetto, ma le cose non sono andate per il verso giusto. Hai fatto degli errori, dovrai prendertene le responsabilità. Come dialogherai con te stesso riguardo a questa cosa qui che è accaduta? Potresti dire ad esempio, è stato un fallimento, ho fallito, oppure in modo ancor più radicale, sono un fallito. Dicendo così, quale risonanza interiore avranno questa parola, fallito, fallimento? Probabilmente se scegli questa parola, in quello stesso momento nella tua mente si affacceranno altri pensieri. Che hai sbagliato a crederci così tanto, che in fondo altri ti avevano fatto capire che stavi andando per la strada che non dovevi imboccare, che era meglio se facevi qualcos'altro. Se dirai a te stesso che hai fallito o che sei un fallito, facilmente ti verrà un pochino da disperarti, da stare molto male dentro di te. E se provassi a sostituire la parola fallimento con la parola errore? Hai fatto un errore. Certo, tutti fanno degli errori. Chi non fa degli errori? Ne facciamo 100 ogni giorno. Ma gli errori si possono affrontare, gli errori si possono risolvere, si può mettere una pezza all'errore che abbiamo fatto. Se ci si accorge degli errori, si potrà crescere grazie a questi errori, ci si potrà stare più attenti e la prossima volta che ti capiterà una situazione analoga, le cose potranno andare meglio. Alla luce della fede, poi, dire fallimento potrebbe aprire anche altri scenari. Potrebbe farci disperare della salvezza, della possibilità di avere una seconda occasione. Ci potrebbe far disperare della misericordia di Dio. Quindi la prossima volta che andrà storto qualcosa, anche per causa tua, non dire più ho fallito, è stato un fallimento, sono un fallito, ma semplicemente di ho fatto un errore, ho fatto degli errori. Ma questi errori si possono rimediare. Secondo esempio, ti viene fatta una proposta che di primo acchito sembra proprio superiore alle tue forze. E allora ti verrebbe naturale, istintivo rispondere così, no, impossibile, non ce la farò mai. La famosa pubblicità della Adidas riporta quella frase, impossible is nothing. L'impossibile non esiste, l'impossibile è niente, ma in realtà questa frase esiste da molto prima nella tradizione scout. Guardate questa immagine, la parola impossibile può essere raggiunta da un calcio che fa sparire le prime due lettere e la parola impossibile diventa possibile. Con un calcio l'impossibile diventa possibile, magari passando attraverso una tappa intermedia. Il difficile. Quando ti viene la tentazione di pensare che una cosa è impossibile, prova invece a dire a te stesso, accidenti, è una cosa difficile. Significa che bisogna trovare il modo per cui quella cosa impossibile diventi possibile. Cambiando una parola detta a te stesso riguardo al modo di affrontare una situazione, questa situazione da impossibile potrà diventare difficile e poi possibile. Terzo esempio, ti capita tra capo e collo una cosa molto brutta, una situazione veramente difficile. Prima ancora di chiederti in che modo ti approccerai a quella situazione, prova a chiederti con quale parola la descrivi. Questa è una riflessione che ho imparato da Antonio Quaglietta. Andate a cercare il suo canale YouTube, vi lascio anche il link in descrizione. Trovo che sia una persona veramente eccezionale. Quando ti capita qualcosa di brutto, con quale parola identifichi quel problema? Potresti dire, ad esempio, che si tratta di una tragedia. E allora, quali sensazioni ti evoca questa parola? La parola tragedia. E tragedia ti fa pensare a qualcosa di ineluttabile, qualcosa che non puoi affrontare, qualcosa che semplicemente si affaccia alla tua vita e causa delle conseguenze disastrose, senza appello. Quando dici tragedia, ti senti impotente. Ora, prima di continuare la riflessione, vorrei che fosse chiaro che ho ben presente che certe situazioni nella vita sono veramente difficili da affrontare, sono veramente dei macigni che vengono a cambiare completamente il panorama della nostra vita. Ma non credi anche tu che ci sia modo e modo di affrontare le difficoltà che la vita ci mette davanti con forza e con durezza? Del resto, tutti noi conosciamo persone che hanno subito difficoltà incredibili, eppure in qualche modo sono riuscite a uscirne fuori, a rimanerne anche a volte fortificate. Per cui, quando ti capita quella difficoltà, con quale parola la identifichi? Invece di dire tragedia, potresti iniziare a dire problema. Le tragedie ci atterriscono, ci annullano. I problemi invece si possono affrontare. Del resto, diceva Karl Popper, la vita è tutto un insieme di problemi da risolvere. Oppure potresti addirittura dirti è una sfida. Che cosa evoca in te questa parola? La parola sfida ti fa pensare a nuove prospettive, ti fa pensare a possibilità che ci sono dentro di te, possibilità nuove che devi esplorare, che devi mettere in campo, forze nuove che magari non sapevi neppure tu di avere. Addirittura, di fronte a certi problemi incredibili, ci sono certe persone che spesso a posteriori arrivano a dire che quello che gli è accaduto è stata un'opportunità, che gli ha aperto delle porte che neppure loro credevano che potessero aprirsi. Credo che anche la fede da questo punto di vista possa darci un aiuto. E le persone, gli uomini e le donne che hanno una grande fede di fronte alle difficoltà, magari riescono a dire così: Signore, mi è capitata questa prova, dammi la forza di affrontarla. In realtà io non credo che Dio si diverta in qualche modo a metterci alla prova. Credo semplicemente che la vita sia complessa e con il suo fluire, con il suo cambiamento continuo, a volte ci porta anche difficoltà che non ci aspettavamo. Ma capisci che interpretare le difficoltà come una prova e chiedere a Dio la forza per affrontare questa prova, credo che anche questo possa aprire dentro di noi scenari interiori completamente diversi. Quindi la prossima volta che ti capiterà una difficoltà, piccola o grande che sia, prova ad essere consapevole di come tu chiami questa difficoltà. Prova a mettere da parte la parola tragedia, prova a pensarla come una difficoltà, come una prova, come una sfida e magari un domani ti accorgerai che può anche essere diventata in qualche modo un'opportunità. Potremmo continuare con altri esempi, ad esempio di fronte ad un conflitto, come interpreti l'altra persona? Quale etichetta gli dai? Lei è per te un nemico? È per te un avversario? Oppure è per te un fratello con il quale è capitato qualcosa che in qualche modo dovete affrontare? Spero di essere riuscito a convincerti di quanto sia importante essere consapevoli delle parole che utilizziamo per descrivere il nostro mondo interiore ed esteriore e quanto questo sia determinante riguardo al modo con cui poi affronteremo tutto quello che ci accade. E se il video ti è piaciuto, del resto se sei qui, significa come minimo che l'hai guardato fino in fondo, allora lascia un mi piace e condividi questo video con i tuoi amici, mandalo a destra e a sinistra su WhatsApp, su Facebook, per email e iscriviti anche al canale attivando, mi raccomando, la fatidica campanella.